narcotici di violenza, società di demenza, non sa distinguere il vero dalla delinquenza. Tutti ci mangiano sopra, ci mangiano in testa. Chi ha potere basta, comanda questa società in rasta. Calpestato e basta, rimane la pistola per farsi giustizia. E ti facciamo la cresta, rimani giù con la testa, quando mi vedi zitto e basta. Rimani giù con la testa, anche se sono alto 1,70. 2 metri non ti bastano a mettermi sotto, io ti metto in ginocchio, 2 rime col botto. Ti faccio male tipo Al Capone, negli Intoccabili sono come quello che spara a tutti. Faccio i farabutti belli e brutti, faccio pure i ricchi e gli sfigati, faccio pure quelli sdentati dalla cocaina rapati, faccio di te un purè, faccio come se non avessi nient'altro da fare che fare questa base in maniera magistrale. Non lo so, quello che voglio dire è che questo Stato si sta prendendo tutto di noi, noi che non abbiamo più un cazzo, noi giovani vomitati dal biennio Berlusconi, noi che siamo fuori di testa, che non abbiamo più una casa, solo con l'indipendenza te la puoi comprare, lavoro sicuro, e c'è che il culo parato per il lavoro statale. Noi siamo come la mala sfida della musica, voi siete come la pasta asciutta, sì, quella in bianco. Stanotte in bianco andrò perso, fuori di testa come questo verso. Rimango qui disperso, nelle mie rime immerso, di perversione e confusione che mi hanno messo in testa in media. Pere e Berlusconi sono solo come, non sono opinioni. Pere e Berlusconi sono come e non sono opinioni. C'è gente che non ce la fa più dal dolore. Rimango qui altre 2 ore a cantare, chissà mai che mi venga fuori una bella canzone. Forse contro il capo di Stato, Mr. Presidente, mi spieghi come meno, quelli come me non hanno ancora niente. Mister Presidente, mi spieghi come quelli come me non hanno ancora niente? Come faccio a pagare l'affitto se non ho niente? Niente. La gente capisce i meriti sul lavoro, ma i demeriti che ti danno per l'arte non sono quelli che ti potevano mettere in disparte. Noi siamo quelli che hanno capito come il mondo ci ha punito, e siamo in disparte perché la gente non capisce la memoria ma ci mette da parte. Vorrei sapere, Mister Presidente, come quando cazzo faccio sta musica e mi additano come un delinquente. Sono uno che interpreta, racconta storie. Mister Presidente, non voglio più noie, mi dia la chiave di questa città, perché io l'ho vissuta, la conosco fino in fondo, fra. Mister Presidente, mi spieghi come la tassa sulla merda della spazzatura è così alta e distante da quello che ci possiamo permettere? Mister Presidente.